Ragnar Pfizer. My father name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Siamo pure questa settimana alle 9 e 5 minuti sulle frequenze di Controradio, il lunedì sera, Ragnar Pfizer. Tac. Secchi, concisi e precisi. Io mi ero un attimo distratto qui. Ho visto. Biga mi ha messo una fila di 45 giri sotto il naso. Una pila di 45 di oscura provenienza. Lo sa vecchio com'è, quando ci sono i dischi in mezzo è un casino, eh. Ma secondo te è andato in qualche mercatino o questo è ancora quello che ha pescato? Se era un mercatino buono. Buono, vedi. Tutto molto curato, a parte le copertine originali dei 45, anche la bustina di plastica che serve a mantenerli bene, giusto a non far arricciare i bordi. Vabbè, dai, un po' ci sta, un po' di usura. I patrimoni in pezzetti di piccolo vinile, patrimoni anche proprio di soldi che servono per comprarli. Però. Sono investimenti questi, eh. Certo. Altro che mattone. Investimenti forse sconsigliati dai più. Comunque, Ragnar Pfizer invece è gratis, cioè questi dischi costosissimi, voi ve li sentite senza sborsare neanche una lira. E potete farlo in FM, in radio, insomma come state facendo, 93.6, 98.9, oppure in streaming sul sito di Controradio o in differita sul podcast che è raggiungibile al solito indirizzo ragnarpfizer.blogspot.com. Domani. Da domani. Tutto su playlist etc. 4 DJ si alternano da ora fino alle 22.30, il primo in ordine di tempo è Duccio. Why must I be the thief? Why must I be the thief? Oh Lord, please won't you tell me, why must I be the thief? Why must I be the thief? He said to the hanging man, and how come you're the only one who's like a rock that always stands? Biatch. biatch. come sa. Agora eu vou recomeçar. E quero amar, quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar. Pois agora vou recomeçar. E daqui pra frente eu vou. Capito, la dimostrazione nel set di Bubu che è analogico e digitale. Iduccio, tutte le volte, oh, Iduccio, ti devo riprendere. Non imparerò mai. La dimostrazione, dicevo, che analogico e digitale possono stare bene insieme. Se può fa. Nel senso che appunto Duccio ha suonato sia file con la sua console virtuale che invece vinili regular. Se può fa, vecchio, se può fa. La tecnologia ci viene incontro. Ci aiuta da questo punto di vista. No, questo lo dico perché per noi insomma è quasi scontato, però per gli ascoltatori che sono a casa, che non hanno bene idea, persi dietro la preparazione delle loro cene o la degustazione delle loro cene o al lavaggio dei piatti dopo, insomma. Eh beh, oh. Magari può non essere così scontata questa cosa. Si suonano file MP3, WAV o AIF. Files. Esatto. E anche invece i buoni vecchi solchi, quelli un po' polverosi in alcuni casi. È già avvenuto il cambio di console nel mentre io e Tommy parlavamo, perché appunto Duccio è uscito, sta rimettendo i suoi dischi a posto, invece arriva in console il buon Biga. Duccio puntualizzava che è tutta roba originale, vabbè, pure se sta sul computer comunque, chiaro, c'è a casa, c'è il disco, qua. Ma questo lo diamo per scontato anche perché sappiamo che la SIAE ci ascolta, quindi insomma siamo così sicuri di questa cosa che potremmo quasi dare all'omino SIAE l'indirizzo di casa di Duccio. I prossimi 20 minuti suona Biga. Yeah. Prassi, lenti, passi, basso, fondo, capo, saldo, saldo. Sane pratiche, libri, vivi, libri, libri. Sane pratiche, libri, vivi, libri, libri. Tributo denti, beterbe, bibite, serbe, bibite, bibite, bibite. Spando, fango, ogni mani, positività e poesia, dati coscientismo in sintonia. Tributi utenti, vederbe, vivite, grappi, arancio, spando, fango, solo al sole, me, emete, maggio, gravi, foni, gravi, vari, centri, passi, bassi, ventre, caldo, brassi, lenti, passi, passi, capo, saldo, sane, pratiche, dei feco, intrepido errore di diagnosi, sicuro oscuro bianco e nero, nero teco, porti intorti da salvamorti, di billartimi non mi bevo due sorsi, meno male passavi di lì, sapevi che lavori, per due mesi sono stato di fuori, poi vedevo le luci, i rumori, orinando in vasi, da fiori tremando, frasi mettendo le dita nei cori, canto, con una cerniera sul fianco, il mio compagno di banco puzza d'ornitorinco, mi lento in endo, venose, sento qualcosa, assaporo l'idea che la vita sia rosa. Tu mi riscarico, sì, ma nel posto sbagliato. Ho voglia di un piatto qualsiasi, basta che piuttosto agliato. Desiderio un po' magro, ma avrei grosso motivo di gioirne Ernesto, sto stornello, lascivo. Lavo via il livido e divo, non so, no. La plastica non la riciclo e non me la fo, no. Poi in discarica vedo che mischiano tutto, fa brutto. Ma almeno Antonella è simpatica. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa. já falei que tenho algo a dizer. E disse que falador passa mal. E você me disse que cada um vai colher o que plantou. Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos. Ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então... Eu quero paz, também, paz, mas o Estado paz, não tem direito paz, de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão com o Pilates achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa. Eu boto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra provar. Pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva Beleléu. Fogo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva Beleléu. Fogo Negudito, Negudito. Cascavé, tenho sangue quente. Não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê pra provar. Pra quem quiser ver e comprovar. Benedito João Santos Silva Beleléu. Fogo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva Beleléu. Vulgo Negudito, Negudito. Cascavé, não gosto de gente, nem transo parente. Eu fui parido assim, apaguei um no bar.

bomba, cria bala com farinha, bala com bala, e o galão se espalhando, dando. No rala rala, quando acaba a bala, repaca com faca, e rapa com rapa, e eu me realizando, bambo. Quando a luz acende, uma tristeza trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. Equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, equia, Giovedì 25 febbraio al Tenax aggiungi un socio a tavola, la prima cena spettacolo di Controradio. Ideata per sostenere la radio e aumentare il numero dei soci del Controradio Club, aggiungi un socio a tavola è un radio show con cena e concerti dal vivo. Protagonisti i nostri soci e ascoltatori e tutti i personaggi della radio. Se sei socio e vuoi partecipare, devi semplicemente trovare un nuovo socio che si iscriva con la quota di 50 euro pagata tramite RID e sarete ospiti tutti e due della radio. Info su controradio.it o 055 73 999 10. Ospiti tra gli altri i Attimezzi. Grigio non lineare, il progetto Site Specific di Eva Marisaldi in collaborazione con Enrico Serotti è tutto incluso. La prima personale del duo svizzero Taio Onorato e Nico Krebs con le Grow Homes, lo Still Life di Caravan e la Psycho Room. Sono le nuove esposizioni della Centro per l'Arte Contemporanea X3 a cura di Lorenzo Giusti e Arabella Natalini. Eva Marisaldi con Enrico Serotti, Taio Onorato e Nico Krebs dal 12 febbraio all'11 aprile a X3, Viale Giannotti 83 a Firenze. www.x3.it. Suoni deforme? Noi produciamo mostri musicali. UMC, Unconventional Music Contest. Se suoni musica originale e non poni limiti alla forma, la centrale di Pisa ti invita a partecipare al concorso. In palio, la produzione e distribuzione Lizard di un EP e l'apertura al concerto delle band più sperimentali del momento. Con la collaborazione di Lizard Records, Locusta Booking, Il Mucchio, Radio Cage. Dal 1 marzo al 1 maggio al Circolo La Centrale di Pisa. Il bando scade il 20 febbraio. Per informazioni visita il MySpace La Centrale Contest. Per il resto non ci sono convenzioni. Contro Radio. Piace. Oh yeah, c'è stato anche il terzo cambio della serata. Big ha lasciato il posto a Bubu. Cambio di vestito? Mm-hmm. Cambio di vestito, cambio di dischi, cambio di borsa dei dischi. Io mi sono vestito da Paperino. Poi dopo mi ricambio un'altra volta. D'altronde è carnevale. Allora, nel set di Biga sono passate un po' di cose interessanti da segnalarvi. Era interessante tutto, insomma, ma c'è delle cose sulle quali raccontarvi anche dei fatti che accadono. Sì, Biga si è suonato, ora non mi ricordo quanti, ma un po' di pezzi dall'ultimo lavoro di Mille Lemmy, che sta in free download sul suo MySpace, che è myspace.com/MilleLemmy. Yeah. E, andate a prendervelo, poi comunque ne riparleremo, insomma, ora stasera era giusto così per darvi un assaggio di un assaggino, un disco, sì, bello, interessante in tutte le sue parti, i contenuti musicali ma anche la veste grafica curata dallo Zac, che è anche il fotografo che trovate al lavoro anche sul blog di Ragnan Paisa con alcuni scatti fatti qua in trasmissione, e che domani sera accompagna appunto Mille Lemmy in una performance live dove dentro ci sarà il disegno, la pittura, il rap, la produzione di beat, tutto ciò mescolato insieme. Una cosa che succede ad ingresso gratuito alle Oblate. Alle Oblate, sì. Zac mi ha detto che farà delle maschere di carnevale così, sul è vero, momento. È vero, mi ha parlato anche a me stasera di maschere veneziane. Veneziane, sì, quelle con. Con l'arreggino col bastoncino per sì. reggerla in faccia. Ok, vabbè, ci sarà di che divertirsi sicuramente. E poi segnaliamo anche che è passato un pezzo di Fede DSM, Planet Soap, che pure conosciamo da queste parti. Duccio aveva già suonato dei pezzi suoi, un ascoltatore fisso di Ragnar Paisa che spesso ci dà consigli, ci scrive. Abbracciamolo. Yes. Detto ciò, possiamo lasciarvi anche ai suoni di Bubu. Buon ascolto. bitch. Thank you. sul tappetino rosso steso da Manitoba, suonato come ultimo pezzo nel set di Bubu. Rientriamo in voce per l'ultimo break che facciamo, il che vuol dire che separiamo così anche l'ultimo set, dovrebbe essere quello tuo. È break caffè! È vero? Manchi solo tu. Manco solo io, sì sì sì. Yes. Manitoba, non so se vi ricordate, ma fece uno stranissimo concerto al Teatro Studio di Scandicci qualche anno fa, in una bella serata in cui c'erano Manitoba con il live, tre musicisti, due batterie, mi ricordo, una cosa strana per quello. E poi c'era Bean, il rapper di Antipop Consortium, che dopo il live di Manitoba fece appunto un freestyle con le basi sul lettore CD, praticamente, che si mettevano così, capito? Bella serata comunque, boh, così un ricordo che mi è venuto in mente. Vecchio, prima di posare la cuffia qui al chiodo e spostarmi di là, volevo ricordarti, casomai non lo sapessi, che stasera... Oggi mi sembra, o comunque in questi giorni, ricorre l'anniversario della scomparsa di Big L. Io farò tutto di corsa per riuscire a suonare po' di Big L stasera. Okay, va bene. Tutto il resto è un po' così. Di un omaggio, contorno. Rest in peace. Va sì, bene. Sì, sì. Va bene, fantastico. Ci ha ricordato anche questa cosa. Noi in chiusura vi invitiamo naturalmente a scaricare questa come tutte le altre puntate su ragnampaisa.blogspot.com e di seguire le cose che vi abbiamo consigliato, in particolar modo il live di Mille Lemmi domani sera insieme allo Zac alle Oblate a Firenze. Intanto diamo tempo e modo al buon Tommy di spostare i suoi vinili nei pressi della console. Alle 22.30 sulle frequenze di Controradio, come sapete, arriva il GR in edizione flash da Popolare Network. Poi invece Benedetto Ferrara e le sue farfalle notturne. Biatch. You're getting a little too smart. You're trying to get ahead. You're playing with my heart. Between the lines are red. I got to cut you down and make you hang around. Woo! Sincerely, love you dearly. Change. I can't wait to touch them lanes and them fucking dames. reach the destination. Grab the heat without no hesitation. These niggas fucking up my reputation. I saw Coleon holding a chrome ice grill, looking like he had a license to kill. And he had somebody else with him playing the cut, looking like he can't wait to start spraying shit up. Yo, who that in the background? It's Tommy Gibbs. Oh, I didn't recognize you with your hat down. Son, you ready? We got this whole shit mapped out. I hope you ain't scared, there's no time to back out. Yeah, we gon' take the back route and pull our gats out and throw our mask on. We ain't leaving till everyone's dead and all the cash gone. Yo, pay attention and listen real closely how I break the slang shit down. Check it, my weed smoke is my lie, a key of coke is a pie. When I'm lifted, I'm high, with new clothes on, I'm fly. Cars is whips and sneakers is kicks. Money is chips, movies is flips. Also cribs is homes, jacks is payphones. Cocaine is nose candy, cigarettes is bones. A radio is a box, a razor blade is an ox. Fat diamonds is rocks and jakes. Pay attention and listen real closely how I break the slang shit down. Check it, my weed smoke is my lie, a key of coke is a pie. When I'm lifted, I'm high, with new clothes on, I'm fly. Cars is whips and sneakers is kicks. Money is chips, movies is flips. Also cribs is homes, jacks is payphones. Cocaine is nose candy, cigarettes is bones. A radio is a box, a razor blade is an ox. Fat diamonds is rocks and jakes is cops. And if you got robbed, you got stuck, you got shot, you got bucked. And if you got double crossed, you got fuck. Your bankroll is your poke, a chokehold is a yoke, a kite is a note, a con is a okie doke. And if you got punched, that mean you got snuff. So clean this to buff, a bull scare is a strong bluff. I know you like the way I'm freaking it. I talk with slang and I'ma never stop speaking it. Speak with criminal slang, that's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang, that's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Yo, a burglary is a joke, a wolf's a crook. More deep already explained the meaning of shook. If you caught a felony, you caught an F. If you got killed, you got left. If you got the dragon, you got bad breath. If you 730, that mean you crazy. Hit me on the hit means page me. Ain't you Dustin Sherm? If you got AIDS, you got the germ. If a chick gave you a disease, then you got burned. Max mean to relax. Guns and pistols is gats. Condoms is hats. Critters is cracks. The food you eat is your grub. A victim's a mark. A sweat box is a small club. Your tick is your heart, your apartment is your pad. Your old man is your dad. The studio is the lab and heated is mad. I know you like the way I'm freaking it. I talk with slang and I'ma never stop speaking it. Speak with criminal slang, that's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang, that's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. The iron horse is the training, champagne is bubbly. A deuce is a honey that's ugly. If your girl is fine, she's a dime. A suit is a vine, jewelry is shine. If you in love, that mean you blind. Genuine is real, a face card is a $100 bill. A very hard long stare is a grill. If you sneaking to go see a girl, that mean you creeping. Smiling is cheesing, bleeding is leaking. Begging is bumming, if you nutting, you coming. Taking orders is sunning, an ounce of coke is an onion. A hotel's a telly, a cell phone's a celly. Jealous is jelly, your food box is your belly. Took a gorilla mean to use physical force. You took an L, you took a loss. To show off mean floss. I know you like the way I'm freaking it. I talk with slang and I'ma never stop speaking it. Speak with criminal slang, that's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. Speak with criminal slang, that's just the way that I talk, yo. Vocabulary spills, I'm ill. It's the mad magician with the ill deposition. No repetition, holding down Bronx traditions. My composition, simply squash the competition. Step up and get beat into a submission. Cause this musician, with the street intuition. 735, fuel injected transmission. My opposition, will have to recognize my steeds. Exotic trees, leave a trail of scuffed up knees. So please, you couldn't touch this cat with a stick. Quick to inflict tricks, blaze up in the flick. Son, I'm sick, and you can put that on my mama. Exclamation point, quotation, comma. Lay up on the beaches when I'm down in the Bahamas. The skills go back to the days of Wonderama. So pass the scammer, son, it's time to get this money. So we can relax and recline where it's sunny. I went from standing on the corner